Buongiorno, le notizie in 60 minuti. Scuole chiuse per i timori da maltempo, attende nel pomeriggio forti precipitazioni a Carrara, strade ancora invase dall'acqua. A Pompei, secondo giorno di assemblea, cancelli chiusi, turisti in attesa, l'ira di Franceschini, danno incalcolabile per l'immagine dell'Italia. Per l'OCSE il nostro paese crescerà solo dello 0,2% nel 2015. L'organizzazione chiede alla BCE di agire come la Fed. Oggi riunione del direttivo a Francoforte. Corte Costituzionale CSM, forse la volta buona. Accordo raggiunto tra Forza Italia e PD. Sulla legge elettorale resta la tensione tra i due partiti dopo l'incontro tra Berlusconi e Renzi. Cambia uno dei sistemi di messaggistica più popolari. Impossibile sfuggire. Su WhatsApp si saprà se la persona a cui abbiamo inviato il messaggio lo ha letto. Dopo la Champions, tocca all'Europa League. Stasera in campo Inter con Mazzarri osservato speciale. Torino, Fiorentina e Napoli. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, come sempre se volete scriverci effettogiorno@radio24.it oppure via sms al 349-238-6666. In apertura i problemi per le piogge, quantomeno in questo momento per le piogge attese, anche se qualcosa si è già visto questa mattina. È a Roma che la situazione rischia di diventare critica dal pomeriggio. Andrea Viali per il punto, buongiorno Andrea. Sì Simone, buongiorno. Da qualche ora a Roma, come si dice, il maltempo ha concesso una tregua, ma Campidoglio e Protezione Civile confermano comunque l'allerta meteo, allerta da codice rosso, perché sulla capitale sono attese nuove precipitazioni che nel pomeriggio dovrebbero raggiungere il picco massimo. Ricordiamolo, facevi anche tu nei titoli, che a Roma oggi per precauzione sono state chiuse le scuole, sono stati chiusi anche i siti archeologici, mentre nel centro storico sono state invece aperte tutte le zone a traffico limitato. Sono scelte che si sono rivelate opportune, ha commentato il sindaco Marino parlando dei disagi tutto sommato limitati provocati dai temporali che ci sono stati nelle prime ore di questa mattina. Le squadre di pronto intervento che erano state già allertate hanno dovuto fare fronte a decine di chiamate in diverse zone della città, soprattutto per strade allagate. Da poco sono state riaperte le 4 fermate della metropolitana che erano state chiuse anche queste per allagamenti. Per quanto riguarda il traffico invece al momento non si segnalano situazioni particolarmente critiche, ma come detto si guarda al pomeriggio. Per ora è tutto Simone. Grazie Andrea Viali. Francesco De Remigis questa mattina è andato in giro per la capitale, ce l'abbiamo in diretta con noi. Francesco, buongiorno, che situazione hai trovato? Buongiorno Simone, in questo momento sono arrivato alla stazione Tiburtina dove ormai la pioggia si è fermata, ma è stata una delle zone più colpite, diciamo non paragonabile a quella caduta questa mattina alle prime luci dell'alba. La stazione Tiburtina è uno snodo importante, lo ricordiamo, e anche se l'ascolto, l'invito per non prendere l'auto è stato in parte ascoltato dalla cittadinanza, chi è arrivato a Roma alla stazione si è dovuto muovere con i mezzi, ha trovato non pochi disagi con percorsi alternativi, visto che la zona circostante era pressoché allagata e anche un tratto della via Tiburtina era parzialmente inagibile per le auto. Adesso la situazione si è ristabilita, ma ci sono stati anche dei siparietti, diciamo, c'è chi ha scherzato su questa allerta, visto che la presunta bomba d'acqua, almeno questa mattina, c'è stata soltanto parzialmente, quindi almeno in questa zona tutto è tornato, come diceva anche Viali, alla normalità. Discorso diverso invece nel centro storico, Piazza Venezia, Colosseo, dove era di fatto impossibile attraversare la strada a piedi, vista la quantità di acqua caduta in mattinata, ma come ha ricordato qualche passante in attesa degli autobus, che erano l'unica soluzione alternativa per muoversi in città nella prima mattina, non possiamo certamente chiedere ai sanpietrini di asciugare la pioggia o di fare il lavoro che magari sarà fatto nel corso della giornata dagli operatori. All'Euro invece, un'altra zona molto lontana dal centro storico, Roma Sud, una delle aree di massima allerta, lo ricordiamo, fino alle 10 di questa mattina ci sono state, è vero, diciamo delle piogge forti con anche dei disagi sulla Cristoforo Colombo, una delle direttrici più importanti, con traffico rallentato, ma poi è spuntato anche un raggio di sole e i mercati degli ambulanti erano già popolati di acquirenti, quindi signore che sono uscite, non era una Roma deserta, era solo una Roma un pochino diversa questa mattina, ma nulla diciamo di totalmente invivibile, ecco, questo è il punto almeno. Grazie dunque anche a te Francesco De Remigis, naturalmente torneremo a sentirti nel corso della giornata, soprattutto se la situazione peggiorerà. Il quadro sul resto del paese. Friuli, Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia. Sono queste le regioni da codice rosso per la protezione civile a causa di rischio idrogeologico. Massima allerta anche in Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia. Si sta battendo su tutta la penisola il maltempo e già si contano i danni. L'esondazione del Carrione a Carrara ha portato a più di 400 interventi dei vigili del fuoco per l'evacuazione degli abitanti delle case invase dall'acqua. Allagamenti e famiglie sfollate anche in Liguria, nello Spezzino, e ingenti danni sulla riviera a causa di forti mareggiate. A Venezia invece si guarda con preoccupazione il livello dell'acqua, che oggi dovrebbe raggiungere i 115 centimetri. 4 i feriti a Catania e provincia, dopo la tromba d'aria che si è abbattuta sulla zona a causa delle violente raffiche di scirocco. In Ticino e in Svizzera ci sono già 2 vittime. A causa delle forti piogge, una frana ha travolto l'abitazione dove si trovavano una donna di 31 anni con la figlia di 3. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ci segnalano via SMS degli ascoltatori che, a differenza di quanto abbiamo detto nei titoli, forse un po' semplicisticamente, a Carrara non c'è più acqua per le strade, ma c'è fango che, come i genovesi sanno benissimo, forse è anche peggio. Tra l'altro andremo a Genova più avanti, perché c'è una questione che riguarda l'alluvione e ancora una volta il pagamento delle tasse, che a quanto pare arriverà comunque. Ne parleremo tra poco, ma adesso passiamo alla politica, perché sembra profilarsi un accordo sui membri della Consulta di nomina parlamentare. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è così, nuova votazione per l'elezione dei 2 giudici della Corte Costituzionale che inizierà a momenti qui a Montecitorio. Potrebbe essere allora il giorno buono per una fumata bianca. Si parte infatti dall'accordo di questa mattina tra Partito Democratico, Nuovo Centrodestra e Forza Italia, un accordo che riguarda sia la Consulta che il CSM. Le indicazioni di voto nel primo caso sono Silvana Sciarra, espressione questa del PD, e Stefania Bariatti, Forza Italia, Alessio Zaccaria per il CSM. Interessante la posizione del Movimento 5 Stelle: i pentastellati non voteranno la candidata di Forza Italia Bariatti, mentre la consultazione online ha dato il via libera alla Sciarra. Per il sì si è espressa l'88% della platea del web. Non siamo comunque interessati agli scambi di poltrone, ha spiegato il deputato 5 Stelle Toninelli. Ottimista comunque il governo, credo che oggi ci siano le condizioni per completare le nomine della Consulta e del CSM, ha commentato il ministro Boschi. Sin qui Simone, l'ufficialità delle posizioni, il resto è affidato al segreto dell'urna, che più volte ha presentato sorprese. È tutto, linea allo studio. E dunque vedremo che cosa succederà e se oggi il Parlamento riuscirà ad eleggere i membri della Consulta e quello del CSM. Nel frattempo si ragiona sulla legge elettorale, dopo l'incontro ieri tra Renzi e Berlusconi, che a quanto pare non è stato propriamente morbido. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così Simone, l'incontro con Silvio Berlusconi non è andato bene, ma dal PD arriva la volontà di andare avanti lo stesso. Il ministro delle riforme Maria Elena Boschi lo dice chiaro e tondo: mi auguro che Forza Italia mantenga gli impegni, ma se si dovesse tirare indietro, certo noi non possiamo tirarci indietro di fronte alla necessità e all'urgenza che il Paese ha bisogno di una legge elettorale che funzioni e garantisca la governabilità. Ancora però non è stato fissato l'incontro con la maggioranza, spiega poi Boschi, e qui c'è una che viene da Angelino Alfano. Ci sono da salvaguardare 2 principi, dice il leader del Nuovo Centrodestra, quello della governabilità e quello della rappresentanza, ovvero quest'ultimo punto vorrebbe dire introdurre le preferenze tanto osteggiate da Forza Italia, ma invece chieste anche dalla minoranza Dem. Dopo lo stop di Berlusconi ieri, Renato Brunetta esce allo scoperto: se si vuole passare dal bipolarismo al bipartitismo, questo richiede anche il presidenzialismo e le preferenze erano escluse. Non siamo mica fessi, spiega il capogruppo azzurro alla Camera. Sfugge poi la fretta del Premier di accelerare sulla legge elettorale, un segno che vuole andare ad elezioni. A te Simone. Grazie ad Elisabetta Fiorito. L'economia: il PIL dell'Italia crescerà di appena lo 0,2% nel 2015 e dell'1% nel 2016. Quel che prevede l'OCSE nel suo outlook economico preliminare, ossia previsione economica preliminare per i paesi del G20, collocando il nostro paese in fondo alla classifica per l'anno prossimo davanti alla sola Russia, ferma a 0. L'OCSE invita tra l'altro anche la Banca Centrale Europea a varare un programma di acquisto di titoli di Stato, come avvenuto negli Stati Uniti. Oggi tra l'altro la Banca Centrale Europea stessa riunisce il suo direttivo. Cosa c'è da attendersi e quali contrasti animano in questo momento il direttivo della Banca Centrale Europea? Lo chiediamo al corrispondente a Francoforte del Sole 24 Ore, Alessandro Merli. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. La BCE è in posizione di attesa in quanto ha avviato una serie di misure negli ultimi mesi e sta cercando di vedere se avranno qualche effetto di smuovere questa economia dell'Eurozona stagnante e di far risalire almeno un po' l'inflazione, che ricordiamolo è allo 0,4%, l'obiettivo della BCE è di stare sotto ma vicino al 2%, quindi siamo lontanissimi. Posizione di attesa anche perché a dicembre la BCE stessa dovrebbe rivedere ancora una volta al ribasso le previsioni sia per l'inflazione sia per la crescita, e allora dovrebbe forse decidere finalmente di agire. Naturalmente la grande questione è se farà acquisti di titoli del debito pubblico come già hanno fatto le altre grandi banche centrali, però appunto il consiglio è diviso, si parla di 7-10 consiglieri su 24 che potrebbero essere contrari a questa ipotesi, e quindi Draghi si muove con molta cautela. Grazie Alessandro Merli, intanto poi torneremo a sentirti come sempre facciamo in occasione del direttivo della Banca Centrale Europea subito dopo America 24 intorno alle 13.50, 13.51 più o meno, per fare il punto e per capire effettivamente quali sono state le decisioni della BCE e se decisioni ci sono state. Altre due notizie di economia, la prima è quella sussurrata da settimane: il Consiglio di Amministrazione di Alitalia, che si è riunito ieri, ha individuato Luca Cordero di Montezemolo come presidente designato appunto della nuova compagnia. L'altra riguarda il Monte dei Paschi, che in questo momento guadagna l'1,45% in borsa. Ieri sera, naturalmente a mercati chiusi, il consiglio d'amministrazione ha approvato l'aumento di capitale da 2 miliardi e mezzo per far fronte al deficit emerso negli esami della BCE. Poi naturalmente sul resto dell'andamento dei mercati torneremo alle 13.30 come sempre. Ora la tecnologia, il cambiamento di WhatsApp. Mandi un messaggio e speri. Speri che la risposta arrivi veloce come un lampo. E se quella risposta non arriva, ti illudi che lui o lei quel messaggio non l'abbia ancora letto. Un attimo di distrazione, un telefono spento, un momento complicato. Ti illudi, ma nel caso di WhatsApp ormai ti illudevi. È arrivata infatti la diabolica doppia spunta blu. Cosa succede ora quando si manda un messaggio con questo diffusissimo servizio? Una spunta grigia, messaggio spedito correttamente. Due grigie, messaggio, tra virgolette, consegnato. Due spunte blu, il destinatario ha letto il messaggio. Quindi a questo punto non ha proprio risposto. Cosa fare? Disperarsi? Inventarsi giustificazioni ancora più fantasiose? Chi usa WhatsApp per ragioni sentimentali non farà fatica. Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce e sa inventarsi ragioni a cui la ragione proprio non arriverebbe mai. Marta Cagnola, Radio 24 e Sole 24 Ore. Ricercatori americani hanno individuato un virus per iPhone che risulta particolarmente minaccioso per chi ha sbloccato il sistema operativo. Sta colpendo per il momento una serie di utenti cinesi. Virus e malware su smartphone sono una cosa oramai normale nell'ambiente Android, mentre il mondo Apple è stato finora protetto dalla maggiore chiusura dei sistemi operativi di Cupertino. Ora alcuni ricercatori americani hanno individuato un malware chiamato WireLurker che sta colpendo alcuni iPhone in Cina di utenti che usano un App Store alternativo a quello di Apple, che cioè hanno sbloccato il sistema operativo col jailbreak. L'app usata come veicolo sarebbe già stata scaricata 350.000 volte e sarebbe potenzialmente pericolosa solo per gli iPhone con jailbreak. In questo caso andrebbe a toccare l'applicazione Alipay, l'app di Alibaba per i pagamenti molto diffusa in Cina. In definitiva, chi ha un normale iPhone può stare tranquillo, soprattutto se non è in Cina. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Notizie di poco fa: sono stati oltre 1.100 dalle 8.30 alle 11 di oggi i turisti in attesa di poter entrare all'interno degli scavi di Pompei, dove da ieri è in corso un'agitazione dei dipendenti che si riuniscono in assemblea nelle prime ore del mattino. Nella giornata di ieri i turisti in attesa sono stati 2.000 e probabilmente i sindacati replicheranno domani. C'è una presa di posizione molto dura del ministro Franceschini, che dice è un danno incalcolabile per l'immagine dell'Italia. Torneremo a parlare alle 13.35. Intanto saluto Carlo Genta. Ciao Carlo. Ciao Simone, buongiorno. Allora, alla Roma ieri è andata male, ma la qualificazione non è per nulla esclusa, il passaggio del turno in Champions. E poi stasera c'è l'Europa League. Sì, stasera c'è l'Europa League. Ieri sera, quanto alla Roma, un 2-0 che non è il 7-1 subito all'Olimpico dagli stessi avversari, cioè dal Bayern Monaco, che è probabilmente in questo momento la squadra più forte del mondo, però è stata una partita totalmente arrendevole difensiva quella della Roma. Roma che ha fatto turnover è vero, ma lo ha fatto anche il Bayern di Monaco, senza schierare all'inizio Robben e Müller, che sono le due delle tante superstar che ha Guardiola, ma è stata una partita mai in discussione. Roma, che non è riuscita a combinare praticamente nulla sul campo del Bayern, ha pensato unicamente a salvare la dignità. Possiamo dire che ce l'ha fatta. 2-0 non è un risultato così eclatante, almeno dal punto di vista numerico. Qualificazione che è comunque nei piedi della Roma, come ha detto Garcia, perché il CSKA di Mosca ha vinto sul campo del Manchester City. La prossima partita della Roma sarà proprio a Mosca, l'ultima gara in casa con un City che sarà già eliminato, quindi la Roma può farcela passare questo girone. Stasera Europa League, importante per l'Inter, per Mazzari che gioca in Francia con il Saint-Étienne, poi in campo anche il Napoli contro gli svizzeri dello Young Boys, che l'hanno battuto 2-0 nella partita di due settimane fa. Torino e Fiorentina pure in campo, e quindi serata con quattro italiane. Roma semideserta per le scuole chiuse, per i timori da maltempo. Si attendono nel pomeriggio forti precipitazioni a Carrara, strade ancora invase dal fango, allerta in una serie di regioni del nord. Per l'OCSE l'Italia crescerà solo dello 0,2% nel 2015, l'organizzazione chiede alla BCE di agire come la Fed. Oggi riunione del direttivo a Francoforte. Pompei, secondo giorno di assemblea e cancelli chiusi. 1100 turisti in attesa, l'ira di Franceschini, danno incalcolabile per l'immagine dell'Italia. Corte Costituzionale CSM, forse è la volta buona, accordo raggiunto tra Forza Italia e PD. Sulla legge elettorale resta la tensione tra i due partiti dopo l'incontro tra Berlusconi e Renzi. Patrizia De Luise è presidente di Confesercenti Genova, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. L'abbiamo chiamata perché da quel che abbiamo capito su questa vicenda della sospensione delle tasse, soprattutto per voi che siete stati appunto gli esercenti, i commercianti, siete stati più colpiti dall'alluvione, essendo i negozi ai piani terra evidentemente, questa sospensione dei tributi sta creando qualche problema. Ci sarà o non ci sarà, che non abbiamo capito? Infatti questa sospensione rappresenta l'ennesimo pasticcio in una vicenda già abbastanza travagliata per conto proprio. Allora, come si sono avvenuti i fatti alluvionali il 9 e il 10 ottobre, il primo passo che abbiamo fatto, fra l'altro di mio pugno, è partita una lettera a Presidente della Regione, Sindaco, Prefetto, affinché si mobilitassero per fare la richiesta dello stato di calamità naturale, senza il quale il Consiglio dei Ministri non può, come dire, provvedere alla conferma di questo stato di calamità e quindi alla sospensiva dei tributi. Sì. I tempi si sono allungati perché, insomma, la richiesta è stata fatta poi dopo, ecco, l'imminenza della scadenza delle tasse del 15 ottobre. Sì. Era ovviamente, determinava un'accelerata di tutta la procedura. Certo. Allora, De Luise, il 20 ottobre arriva il decreto ministeriale che dice sostanzialmente le tasse sono sospese, sì, no? Un problema, è arrivato dopo la scadenza effettiva che era il 15 e noi avevamo detto quindi... va benissimo, si capiscono tutti i ritardi, però provvedete a dare una sospensiva. Ora, il 4 novembre arriva questa nota dall'Agenzia delle Entrate che, insomma, alcuni tributi sono stati sospesi, però c'è una parte che è relativa all'IRPEF che non si può sospendere, per cui si invita chi non ha pagato a pagare una sovrattassa, una multa per il ritardo pagamento. Allora, qui si tratta di essere, come dire, di usare un po' di buonsenso. Le procedure burocratiche le conosciamo tutti, purtroppo noi paghiamo sulla nostra pelle le procedure, la lentezza delle procedure burocratiche, perché ci ritroviamo da un anno all'altro con delle alluvioni. Quindi questa cosa io credo che con un molto buonsenso si possa mettere a posto. In ogni caso è partita questa lettera a firma di tutte le associazioni del territorio, Camera di Commercio compresa, a chi di dovere e a chi gli compete di risolvere questo pasticcio e dare quindi l'input all'Agenzia delle Entrate Locali di poter diramare una come dire, una chiarificazione in merito che non vada a penalizzare ulteriormente chi è già stato colpito per la seconda o terza volta, cerca comunque di ripartire, e insomma sarebbe una beffa, è una beffa nei confronti di chi vive e chi lavora in un territorio che è già abbastanza martoriato. Grazie Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti Genova, e a Genova torneremo la settimana prossima, che naturalmente perché cade quasi un mese dall'alluvione che ha colpito la città. Danilo Toninelli, deputato del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, bentornato. Buongiorno, buongiorno, grazie di avermi invitato. Allora, voterete un candidato alla consulta, che è quello del Partito Democratico, ma non voterete l'altro, mi sembra di aver capito? Allora, voteremo certamente la professoressa Sciarra, come l'88% degli iscritti al movimento, al sito del Movimento 5 Stelle, hanno fatto e terminato pochi minuti fa. Voteremo il candidato del Movimento 5 Stelle al Consiglio Superiore della Magistratura. Mi permetto di dire che il candidato, la professoressa Sciarra, non è propriamente un candidato del Partito Democratico, perché il candidato per eccellenza del Partito Democratico era Violante. Sì. E se hanno accantonato Violante sono passati ad un profilo più alto e a mio parere indipendente dalla politica, come richiederebbe una figura da mandare alla Corte Costituzionale, è grazie all'imposizione di un metodo che noi abbiamo metaforicamente definito a 5 Stelle, che è quello della trasparenza e della condivisione. Stavolta l'hanno fatto e abbiamo risolto velocemente. E lei dice la candidatura di Stefania Bariatti, lei dice non risponde a queste specifiche, per così dire. No, in realtà non è così, perché la candidatura innanzitutto non è ancora stata ufficializzata e resa pubblica nelle maniere che noi riteniamo necessarie, ovvero sia o come ha fatto il capogruppo del PD chiamando il nostro capogruppo ufficializzando il nome della Sciarra, ma semplicemente sono note di agenzia, sono voci di corridoio. Quindi non essendoci l'ufficialità, noi non la possiamo prendere in considerazione, perché, le ripeto, l'ufficialità per noi fa partire quel mezzo che porta alla consultazione online della rete, che si esprimerà dopo aver capito e conosciuto meglio la figura che si propone di votare. Ci vuole un po' di tempo perché ci sia una sollecitazione dell'opinione pubblica. Allora, posto che probabilmente oggi comunque se ne arriverà ad una, insomma, perché probabilmente alla fine può darsi che tra l'altro Sella ha fatto sapere che voterà anche la Bariatti, quindi può darsi che risulti eletta. La vorrei sollecitare brevemente anche sulla legge elettorale. Come ha visto, naturalmente sono indiscrezioni, Toninelli, per carità, però pare che tra l'ex cavaliere e il presidente del Consiglio ieri le cose non siano andate proprio bene, e lui abbia detto: signori, caro Berlusconi, se la legge elettorale non la faccio con te, la faccio qualcun altro, lo trovo, per così dire. Questo qualcun altro potreste essere voi? Io ho seguito quello che è successo ieri in quell'incontro. Sono piuttosto molto amareggiato, non piuttosto amareggiato, dal fatto che sia trapelato veramente poco. Quello che è trapelato è soprattutto frutto di voci di corridoio. Che cos'è che è uscito? Che c'è una certa, una forte difficoltà nel trovare un accordo. Ma io dico, con un metodo oscuro, com'è quello del patto del Nazareno, è scontato che ci siano delle cattive scelte per il bene del paese. Se loro vorranno portare avanti quel metodo che hanno accettato per i giudici della Corte Costituzionale con noi, cioè un metodo dell'onesta condivisione e della spiegazione del perché delle scelte, cioè tu vuoi modificare la legge, perché lo vuoi fare? Per permettere a più partiti di avere una rappresentanza e quindi a più cittadini di essere rappresentati, solo per la governabilità? Le preferenze, che cosa volete fare? Sulle preferenze ci stanno prendendo in giro, perché io conosco il metodo del Toscanellum, che è la nuova legge elettorale della regione toscana, e circa il 70% di chi verrà eletto sarà nominato dalla segreteria di partito. Quindi capisce come siamo su un piano ancora inaccettabile dal nostro punto di vista. La ringrazio, grazie a Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali. Francesco Mele, responsabile del Centro Funzionale della Protezione Civile del Lazio, benvenuto anche a lei, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Allora, mi sembra di capire che questa mattina le cose siano andate abbastanza lisce su Roma e nel Lazio, naturalmente tutto si sposta al pomeriggio. Si sta spostando tutto al pomeriggio e la perturbazione sta anche lentamente migrando verso il Lazio meridionale, e per cui domani dovremo avere un'attenuazione dei fenomeni ancora in atto nel Lazio centro-settentrionale e un mantenimento della situazione attuale nel Lazio meridionale. I rischi per la capitale per il pomeriggio però permangono, mi sembra di capire. Diciamo che si tratta di fenomeni, come avete visto anche da quello che è successo stamattina, di tipo temporalesco, quindi difficilmente prevedibili nello spazio e nel tempo, però sicuramente fenomeni che si possono verificare con elevata intensità, per cui diciamo l'attenzione rimane alta e tutta la macchina messa in piedi rimane per tutto il resto della giornata operativa. Il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, notizia di un istante fa, sarà al Parlamento europeo a Bruxelles e lancerà la campagna per la raccolta di firme per il referendum anti-euro. A Roma scuole chiuse, timori per il maltempo, sono attesi nel pomeriggio forti temporali, a Carrara strade ancora invase dal fango. A Pompei, secondo giorno di assemblea e cancelli chiusi, l'ira di Franceschini che dice danno incalcolabile per l'immagine dell'Italia. Corte Costituzionale CSM, forse la volta buona, accordo raggiunto tra Forza Italia e PD, e sulla legge elettorale resta la tensione tra l'ex cavaliere e il presidente del Consiglio. E come già vi dicevamo nei titoli, questa mattina tra le 8.30 e le 11 erano già 1.100 i turisti ammassati di fatto in coda ai cancelli di Pompei a causa del secondo giorno di assemblee. Si svolgono per circa 3 ore dei dipendenti appunto del sito archeologico. Un fatto già successo ieri e ci sono stati 2.000, si è arrivati ad una coda fino ai 2.000 turisti e si replicherà domani, un fatto che il ministro dei beni culturali Franceschini ritiene inaccettabile, un danno incalcolabile per l'immagine dell'Italia. Ilaria Borletti Buitoni è sottosegretario ai beni culturali, la saluto, buongiorno. Buongiorno. Immagino che sia in linea col ministro su questa dichiarazione. Ma assolutamente, è inaccettabile, incalcolabile, un danno d'immagine, un danno reale, perché naturalmente questi visitatori sono rimasti fuori. Ci continuiamo a far del male nel nostro paese, abbiamo nei beni culturali il miglior biglietto da visita per il mondo e per il mondo da noi e continuiamo a buttarlo via, quindi effettivamente è una situazione sconcertante. Una situazione sconcertante, dice lei, però come si risolve il problema, sottosegretario? Perché uno non è che può limitare in maniera eccessiva, diciamo, l'attività sindacale. No, ovviamente l'attività sindacale ha tutto il diritto di esplicitarsi nel modo in cui lo si ritiene di farlo, però non c'è dubbio che la fruizione di un bene culturale è un servizio pubblico. Ora, che all'interno di questo servizio pubblico si debbano trovare gli spazi perché l'attività sindacale si svolga, siamo tutti d'accordo, ma questo non può andare a detrimento completo del servizio stesso. Qui si parla di 3 giorni. Cioè non si parla di qualche ora, non si parla di un spazio di tempo ricavato all'interno di quello che sono gli orari abituali. Si parla di 3 giorni, 3 giorni in cui i nostri visitatori saranno lasciati fuori al cancello. E questo mi pare veramente una scelta assolutamente irresponsabile. Ritiene che si possa operare in qualche modo dal punto di vista della legge, dal punto di vista legislativo, per far sì che fatti di questo genere non avvengano più? Nella puntata di ieri il nostro Oscar Giannino alle 16.30 ha ospitato una persona che ha portato dei turisti cinesi che si sono trovati bloccati, in parte anche a testimonianza di quello che diceva Franceschini, insomma, si sono trovati bloccati appunto là davanti ai cancelli. Ritiene che ci sia un modo per far sì che questo non avvenga più, insomma, al di là, no, della normalizzazione dei rapporti con i sindacati? Io credo che il modo sia quello appunto di ritenere la fruizione dei beni culturali un dovere, un diritto dei cittadini di poterla avere, e credo che all'interno di questo quadro, e quindi dando a questo ambito l'importanza che merita, si debba trovare con i sindacati a livello nazionale un accordo che preveda che anche nel caso di appunto riunioni, assemblee, piuttosto che anche scioperi, sia rispettato perlomeno in parte, quello che è il dovere di uno Stato, che è quello di rendere i beni che gli sono affidati. Lei dice in sostanza una cosa che funzioni un po' come quando ci sono gli scioperi del trasporto pubblico locale, insomma, no? Che prevedono appunto delle fasce di garanzia, una preautorizzazione e così via. Sì, io dico questo, naturalmente questo deve essere frutto di un accordo condiviso, non deve essere un'imposizione unilaterale, però io credo che se si valuta il danno che viene fatto al nostro paese con quello che sta succedendo in questi giorni a Pompei, io sono convinta che soprattutto a livello nazionale i sindacati non possono che convenire che l'ambito dei beni culturali debba avere un trattamento diverso. Il sovrintendente Osanna dice tra le altre cose che queste assemblee organizzate sono pretestuose. Io non so quanto lei sia addentro alle vicende di Pompei, ma immagino insomma che naturalmente se ne occupi. Vorrei capire se condivide questo giudizio. Non sono addentro alla gestione ordinaria di Pompei, perché non rientra nelle mie deleghe, però conosco abbastanza Osanna e la sua competenza e l'impegno che sta mettendo nel caso Pompei, chiamiamolo ahimè il caso Pompei, per essere convinta che sta facendo tutto il possibile per tirare fuori questo sito anche dalla percezione che il mondo ne ha, e cioè di un sito problematico e in qualche modo la cui gestione fallimentare. Quindi non posso che rispondere a questo, non tanto entrando nel merito, perché ripeto non conosco le questioni di gestione ordinaria, ma ribadendo un principio di fiducia nei confronti del professor Osanna, che da parte di questo ministero è totale. Grazie ad Ilaria Borletti Buitoni, sottosegretaria dei beni culturali, per essere stata con noi. Noi continuiamo a parlare di arte, però di tutt'altro tipo. L'arte realizzata, una scultura realizzata da un artista tedesco, un'auto in pietra arenaria, 13 tonnellate, 17 anni di lavoro per celebrare la Trabant. A soli tre giorni dal 25esimo anniversario della caduta del muro di Berlino, era il 9 novembre del 1989, lo scultore tedesco Karl Bloch ha presentato la sua ultima opera, un omaggio ai simboli delle due ex Berlino Est ed Ovest, il muro e la mitica Trabant, la nota utilitaria dei cittadini della DDR, la Repubblica Democratica Tedesca. Bloch ha realizzato infatti una Trabant a grandezza naturale tutta in pietra arenaria, un'opera da 13 tonnellate costata all'artista 17 anni di lavoro. Un vero monumento alla memoria per celebrare la Trabi, come amano chiamarla i tedeschi, che ora è sul mercato disponibile al miglior offerente. L'utilitaria dei berlinesi dell'Est, di cui a partire dal 1958 e fino alla caduta del muro furono prodotti 3 milioni di pezzi, è diventata un cult non solo a Berlino ma in tutta la Germania, dove sono nati club che organizzano raduni, un po' come è accaduto in Italia per la Duna prodotta dalla Fiat. Per chi viveva nella DDR, questa vettura significava libertà di movimento e rappresentava una sorta di status. Tutti cercavano di averne una, ma non era così facile sia per il costo che per i tempi di attesa. Per questo la Trabant è diventata un simbolo. Adriana Fracchia, Radio 24 e Sole 24 Ore. Un'ultima notizia prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, che arriva ancora dalla politica. Per il CSM i parlamentari di Forza Italia dovranno votare scheda bianca, l'indicazione che è arrivata agli esponenti azzurri dopo che il Movimento 5 Stelle, come abbiamo sentito poco fa, ha annunciato che non avrebbe votato per la candidata di Forza Italia alla consulta. Quindi si prosegue. Prima di chiudere le notizie da Francoforte, che cosa ha deciso la BCE? Lo chiediamo al corrispondente del Sole 24 Ore, Alessandro Merli. Alessandro, eccoci di nuovo. Sì, buongiorno. Decisioni non ce ne sono, non erano attese. C'è molta attesa per le parole di Mario Draghi, che dovrà un po' spiegare come la BCE intende muoversi in questa situazione in cui l'economia europea resta stagnante e l'inflazione non risale verso l'obiettivo della BCE. Sappiamo che c'è una divisione in atto nel Consiglio e sarà interessante sentire le parole di Draghi anche per vedere come cerca di sanare questo confronto ed eventualmente prendere poi, forse già a dicembre, le misure che si rendono necessarie per cercare di tirare finalmente fuori l'Eurozona dalla crisi. Grazie, grazie ad Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Noi chiudiamo qua Effetto Giorno. Un ringraziamento a Filippo Aureggi in regia, Laura Faggini in assistenza e redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Se volete scriverci, Effetto Giorno, @radio24.it, c'è anche la nostra pagina Facebook. La trasmissione torna domani alle 13. Noi ci risentiamo tra un attimo con GR24.